20. Dopo 3 settimane il convoglio fu in vista di Fort Stanwix. Joseph era passato da lì 7 anni prima. Aveva accompagnato Sir William a firmare il trattato più importante. I Sachem, i rappresentanti della corona, avevano stabilito il confine oltre il quale i coloni bianchi non potevano insediarsi. Il fiume Unadilla, da Fort Stanwix alla Pennsylvania. Joseph ricordava la mole del forte in cima al terrapieno, i 4 bastioni e la palizzata intorno. Difficile immaginare una costruzione di tronchi altrettanto solida e imponente, ma la guarnigione britannica se n'era andata da tempo. Pochi inverni di abbandono avevano fiaccato l'orgoglio del luogo. Gli spalti marcivano, le casamatte crollavano, i baluardi franavano nel fossato. Il convoglio avrebbe fatto tappa per alcuni giorni. I battelli imbarcavano acqua. Pigiare stoppa nelle giunture non bastava più, servivano pece e vernice. Parte delle provviste era fradicia, bisognava darsi da fare con caccia e pesca. Occorreva ritemprare forza e spirito in vista del grande trasbordo, lungo la mulattiera fangosa che in 4 miglia conduceva sull'altro versante, dalle acque del Mohawk a quelle del Wood Creek. Oltre la spianata si entrava in territorio Oneida. Una delegazione saliva al forte per dare il benvenuto a Guy Johnson e garantire una folta presenza al Concilio di Oswego. Guy organizzò in fretta un comitato d'accoglienza, composto da Daniel Klaus, Joseph Brandt e Peter Johnson. Nel drappello che si avvicinava, Joseph riconobbe il Sachem che aveva celebrato il funerale indiano di Sir William. Shononces. La sua presenza era un evento inatteso. 10 guerrieri lo scortavano. Portava abiti di gran pregio e piume d'uccello legate all'unica ciocca di capelli. «Io sono tuo fratello, Urag Quadira», disse. Per accoglierlo come si deve, Guy Johnson aveva rispolverato l'uniforme rossa con gli alamari d'oro. «Anch'io sono tuo fratello, Shononces. Siamo onorati della tua visita». Joseph sfoggiava abiti eleganti e il bastone da passeggio. Ricevette il saluto dei guerrieri. «Il fiume ha portato notizie del tuo arrivo», riprese il capo indiano. «Prima di partire anche noi per il concilio, siamo venuti ad augurarti buon viaggio. Il fiume dice che c'è con voi il Grand Diable». «Sì», confermò Guy. Un mormorio serpeggiò tra gli Oneida. «Ricordi il figlio di Warraghyllagay?» aggiunse. «Peter Johnson, è il suo primo concilio». Gli Oneida salutarono il ragazzo. «Dov'è il Grand Diable?» chiese Shononces. Joseph fece un cenno a Guy Johnson e scese in direzione del fiume. La croa sedeva con i giovani guerrieri, pulivano i fucili e riempivano i corni di polvere nera. «Il Sachem degli Oneida è venuto a salutarci. Vuole incontrarti». La croa si alzò. «Non sederti con gli Oneida», sibilò Jethro Canenonte. «Non ti fidare di loro», fece eco Rognateca. «Hanno paura di te e ti blandiscono come donnicciole. Non andare». Joseph puntò il pomello del bastone. «Tieni a freno la lingua». Il giovane non si scompose. Assunse un tono provocatorio. «Joseph Brandt sa che gli Oneida sono infidi. L'hanno venduto loro Samuel Waterbridge ai ribelli. Faranno lo stesso con noi. Non hanno onore». «Taci», ringhiò Joseph. «Mia moglie e i miei figli sono Oneida. Gli Oneida sono nostri fratelli. Non voglio problemi fino al concilio». I guerrieri zittirono e ripresero a pulire le armi. Joseph e la croix si allontanarono. Shononces attaccò un lungo panegirico del defunto Sir William, come se dovesse seppellirlo di nuovo. Vennero offerti cibo e bevande, mentre Klaus improvvisava un discorso di benvenuto, che Joseph tradusse con fastidio. Non sopportava l'accento del tedesco, era come il frullo di una piuma nelle orecchie. Gli Oneida avevano portato cinture di wampum, pelli di castoro e coperte variopinte. Guy Johnson ricambiò con polvere da sparo, coltelli e corda. Solo dopo lo scambio di doni affrontò la questione. Parlò dell'unità delle 6 nazioni, dell'importanza del concilio, della necessità di un aiuto reciproco tra i Mohawk e i fratelli minori Oneida. Joseph pensò che il discorso era buono, ma mancava qualcosa. Gli parve di cogliere un movimento, una sagoma nota. Il fantasma di Sir William sedeva con loro intorno al fuoco, li ascoltava e li osservava curioso. Shononces convenne sul bisogno di rimanere uniti, ma professò la neutralità degli Oneida. Un conflitto tra inglesi non poteva riguardare il suo popolo, La risposta del Sachem lasciò tutti scontenti. Guy Johnson non sembrò colpito. Anche all'epoca della guerra franco-indiana, gli Oneida vennero qui e si dichiararono neutrali, mormorò all'orecchio di Joseph. Eppure Sir William ne convinse parecchi. Si fecero persino battezzare. Fu la volta dei racconti di guerra. Le storie si mescolavano al fumo che saliva fino a perdersi nella luce fioca del crepuscolo. Joseph cercò ancora lo spettro seduto al margine del cerchio, oltre le fiamme, ma non vide nulla. Se Molly fosse stata lì, avrebbe potuto interrogarlo, chiedergli consiglio. Più tardi, al tramonto, si ritrovò a passeggiare tra le rovine del forte. Nell'ultimo bagliore d'occidente, i bastioni diroccati erano scheletri di animali giganteschi. Tra i gruppi di uomini che bivaccavano, scorse alcuni Oneida che barcollavano allegri. MacLeod mesceva rum da un barilotto. Quando vide Joseph, sorrise e si batté il petto. «Sono già dei nostri!» Joseph passò oltre, soltanto per incappare nel capitano Butler. L'irlandese indicò la mescita. «Alla fine, chi ha più rum vince la guerra, il resto sono chiacchiere!» Mimò uno svolazzo con la mano. L'indiano accettò il sigaro che gli veniva offerto. Butler si piegò a raccogliere un tizzone dal falò più vicino e glielo porse. «Anche tu sei sicuro che andrà tutto per il verso giusto?» Joseph continuava a tacere. I bianchi usavano fare domande e rispondersi da soli, per il piacere di ascoltare le proprie parole. Butler tirò un paio di boccate e riprese. «Se già gli Oneida si tirano indietro, convincere le altre nazioni sarà un'impresa. Soprattutto i Seneca. Io li conosco bene. Sono un osso duro, detestano gli inglesi, ma soltanto loro possono schierare 1000 guerrieri». Joseph pensò che il vecchio ufficiale aveva ragione. Oltre la cerchia esterna del forte, la morsa della notte si faceva impenetrabile.